I primi 5 libri della Bibbia sono particolari. Non solo, citando i libri dell'Antico Testamento, essi vengono nominati sempre per primi, sia da Gesù che dagli Apostoli, ma anche la loro struttura è veramente unica nella letteratura religiosa. Ancora oggi, per gli israeliti la Torah ha immensamente più valore di ogni altro scritto sacro, compreso i profeti e gli scritti chiamati storici. Dobbiamo mettere però in forse un'opinione comune. Il Pentateuco non è stato scritto tutto personalmente da Mosè, alla maniera dei profeti, come ad esempio Geremia, perché questi scrissero ciò che Yahweh voleva, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Da un'attenta e continua lettura del testo della Torah, si ha quasi l'impressione che ci sia un narratore esterno rispetto alla descrizione dei fatti o alla notazione delle rivelazioni divine affidati al mediatore Mosè. Un narratore ignoto che non sembra essere il Mosè scrittore e che ha la capacità di leggere nel profondo il cuore dell'uomo. Questo si nota nella struttura della narrazione. Altre volte emerge in modo chiaro che Mosè agisse da profeta, come voce di Yahweh. Il testo lo evidenzia in modo netto. Mosè dunque non è profeta secondo quanto dice l'Eterno, perché esplicitamente è detto che il profeta ha visioni e sogni e l'Eterno parla al profeta per enigmi. Ma non è così per Mosè. Leggiamo nel libro dell'Esodo, dei Numeri e nel libro del Deuteronomio che con Mosè Yahweh parlava bocca a bocca. Espressioni come l'Eterno parlò a Mosè e l'Eterno disse Mosè si trovano un centinaio di volte e simili espressioni sembrano precludere l'idea che Mosè non fosse il redattore del testo. Se Mosè fosse stato l'autore in prima persona del Pentateuco, avrebbe scritto la parola dell'Eterno mi fu rivolta, come scrive il profeta Ezechiele, o così mi ha detto l'Eterno, come scrive Geremia. Ci si può lasciare ingannare dal fatto che l'uso della terza persona è normale nella Torah, ma considerato che molti studiosi fanno notare che in ebraico non esiste il plurale di maestà, ciò che per noi è normale diventa significativo. Quando leggiamo nel libro dell'Esodo e nel libro del Deuteronomio che Yahweh ordina a Mosè di scrivere, comprendiamo che Mosè facesse da tramite, ma non da autore. Se leggiamo tutto di seguito, soprattutto i libri dell'Esodo, del Levitico e Numeri, ci rendiamo conto che qualcun altro sta descrivendo gli avvenimenti relativi al popolo di Israele. La preghiera che Mosè rivolge a Yahweh può essere rivelatrice a riguardo. Ciò nonostante, ora ti prego, perdona il loro peccato. Se no, de, cancellami dal tuo libro che hai scritto. Ma l'Eterno rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Anche i versetti che chiudono il libro del Levitico e i Numeri sono in questo senso veramente significativi. Ascoltiamo. Questi sono i comandamenti che l'Eterno diede a Mosè per i figli di Israele sul monte Sinai. Il verbo diede può avere il significato di dire, ma anche di consegnare. E ciò infatti che leggiamo nel libro dell'Esodo al capitolo 34. L'Eterno disse a Mosè: tagliati due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime tavole che spezzasti. Dunque, parte della legge è stata scritta direttamente da Yahweh. Prendiamo ora in esame la singolarità della Torah. Al capitolo 20, nel libro dell'Esodo, Yahweh si rivela a Mosè. Allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo: «Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù». In questo capitolo Yahweh dà i 10 comandamenti e, in seguito, tutta una serie di leggi. Yahweh rivela in prima persona tutte le cose che vuole riferire al suo servo. Poi, se si segue il discorso, mai interrotto, ci si accorge che l'Eterno parla in terza persona e parla di Dio. Ecco un esempio in Esodo al capitolo 21. Se lo schiavo apertamente dice: «Io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli e non voglio andarmene libero», allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo farà accostare alla porta o allo stipite. Quindi il suo padrone gli forerà l'orecchio con un punteruolo ed egli lo servirà per sempre. Come possiamo notare, se stiamo al testo e non a dottrine o interpretazioni magari giuste, ma certamente umane o di scuola, la scrittura è alquanto eloquente. Yahweh parla per bocca di Mosè riferendosi all'Elohim. Non solo. Da questo punto della redazione in poi, fino alla fine del libro dei Numeri, siamo di fronte ad un unico discorso dell'Eterno, scandito fra la prima e la terza persona, fra l'Eterno e Dio, e, ancora, un non meglio identificato Signore. Ciò è talmente macroscopico che, come avviene talvolta, quando le cose sono troppo evidenti, non ce ne accorgiamo se non stiamo attenti al testo letto consecutivamente e non possiamo concederci una interpretazione che vada oltre il testo. Ascoltiamo ora la lettura del brano nel libro dell'Esodo al capitolo 23. Teniamo presente che è sempre Yahweh che parla. «Tre volte all'anno mi celebrerai una festa, osserverai la festa degli azimi. Per 7 giorni mangerai pane senza lievito, come ti ho ordinato al tempo stabilito nel mese di Abib, perché in quello tu uscisti dall'Egitto. E nessuno comparirà davanti a me a mani vuote. Osserverai anche la festa della mietitura, delle primizie del tuo lavoro, di quello che hai seminato nei campi, e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando raccoglierai dai campi i frutti del tuo lavoro. 3 volte all'anno tutti i tuoi maschi compariranno davanti al Signore l'Eterno. Non offrirai il sangue della mia vittima col pane lievitato, e il grasso dei sacrifici della mia festa non rimarrà fino al mattino. Porterai alla casa dell'Eterno, il tuo Dio, le primizie dei primi frutti della terra. Non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Ecco, io mando un angelo davanti a te per vegliare su di te lungo la via e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Stai attento davanti a lui e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti a lui, perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni, poiché il mio nome è in lui». Abbiamo ascoltato che Yahweh parla in modo tale da contemplare nel discorso un altro soggetto di natura divina, pur dichiarando che Dio sia l'unico Signore. Chi legge è obbligato a considerare almeno 2 soggetti, Yahweh e Dio. L'alternanza fra la prima e la seconda persona, quindi, non è casuale. Ascoltiamo ancora nel libro dell'Esodo al capitolo 24. «Poi Dio disse a Mosè: Sali all'Eterno, tu ed Aronne, Nadab e Abiù, e 70 degli anziani di Israele, e adorate da lontano. Poi Mosè si avvicinerà all'Eterno, ma gli altri non si avvicineranno, né salirà il popolo con lui». Il testo è realmente strano, ma molto chiaro se teniamo conto delle considerazioni che abbiamo fatto fin d'ora. Come si può spiegare il passaggio repentino dell'uso della prima a quello della terza persona? la cosa non può passare inosservata. Riscontriamo lo stesso schema redazionale anche al capitolo 30, sempre del libro dell'Esodo. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Quando farai il conto dei figli di Israele per il loro censimento, ognuno di essi darà all'Eterno il riscatto della propria vita quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga quando farai il loro censimento». L'Eterno quindi ordina di dare un riscatto all'Eterno. Abbiamo un altro testo importante, sempre nel libro dell'Esodo, al capitolo 33. «Allora Mosè disse: De, fammi vedere la tua gloria. L'Eterno gli rispose: Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia e avrò pietà di chi avrò pietà». L'Eterno dunque proclama il nome dell'Eterno. Queste prime riflessioni, cari ascoltatori, sulla pluralità della divinità degli ebrei e dei cristiani nella Torah, hanno lo scopo di preparare chi legge la parola di Dio a comprendere che la fede dei cristiani in un Dio trino non è una novità nata con la venuta di Gesù Cristo, ma è una verità espressa fin dalle prime pagine della Bibbia. Che Yahweh a volte si esprima come se parlasse di un altro, non dovrebbe poi sorprendere chi legge metodicamente la parola di Dio, poiché anche Gesù Cristo si è espresso nello stesso modo. Un giorno Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito siederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele». Non vi è dubbio che il Figlio dell'uomo che siede sul trono della gloria sia Gesù Cristo. Eppure, quando parlava di se stesso, Gesù si riferiva in terza persona. Era un modo tipico degli ebrei parlare così? Oppure vi era una ragione anche teologica? Una cosa è certa: quando Gesù parlava in terza persona delle cose future che lo riguardavano, vi era una ragione. La stessa ragione che troviamo poi più volte nella legge di Dio. Gesù parlava di se stesso in terza persona quando si riferiva alle cose future, perché si riferiva alla sua natura divina. Nel corso dei secoli vi è stato tra i teologi un dibattito non indifferente sulla natura di Gesù. Dopo 2000 anni, la figura di Gesù Cristo per alcuni rimane un enigma irrisolto, perché si sono moltiplicati gli errori cristologici, quali le concezioni degli ebioniti, dei doceti e degli ariani. Questi movimenti negarono o la vera umanità oppure la vera divinità di Cristo. Se consideriamo che Cristo è Yahweh, non possiamo dubitare più della sua divinità, mentre se consideriamo le profezie in merito alla sua incarnazione, non possiamo dubitare della sua umanità. Gesù Cristo è pienamente Dio e pienamente uomo, con due nature distinte, ma riunite in un'unica persona. Come disse Byron, se mai un uomo è stato Dio, o Dio è stato un uomo, Gesù è stato ambedue. Questo è il messaggio che proclama sia l'Antico Testamento che il Nuovo. Ma vi sono altre cose che dobbiamo aggiungere e ne parleremo nella prossima trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci presto. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che il vostro desiderio di ascoltare la parola di Dio sia grandemente retribuita con abbondanti rivelazioni. Chi ci segue regolarmente sa che stiamo trattando l'argomento della persona di Gesù, iniziando a esaminarla nell'Antico Testamento. Abbiamo considerato che la Scrittura attribuisse alla divinità di Israele e dei cristiani tre nomi: Adonai, Elohim e Yahweh. Questi tre nomi non sono sinonimi per indicare la stessa personalità divina, e solo Yahweh è il vero nome proprio della divinità di Israele e dei cristiani. Perciò la parola di Dio usa una pluralità di termini per indicare lo stesso ed unico Dio. Abbiamo pure preso atto che Yahweh è il nome che il Creatore si è dato e che si è rivelato per la prima volta a Mosè. La fede dei santi dell'Antico Testamento non era dunque in un Elohim vago, ma in Yahweh. Inoltre, abbiamo riflettuto riguardo a come la divinità rivelata di Israele sia pluripersonale, cioè che in essa vi siano più persone. Questo particolare non lo abbiamo colto solo nelle sue affermazioni espresse al plurale, ma anche nella stessa struttura della legge di Dio. Proprio perché il modo in cui la divinità degli ebrei e dei cristiani si è espressa ha una grande importanza per capire la sua natura divina. Diamo anche oggi, quindi, spazio a questa ricerca. Iniziamo considerando uno degli eventi più clamorosi nella storia del popolo ebraico, e cioè quando Yahweh discende sul monte Sinai. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: «L'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito, e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione». In questo brano epifanico è l'Eterno che sta rispondendo a Mosè, che gli ha chiesto di manifestarsi. Egli risponde che proclamerà il nome dell'Eterno in terza persona. È da notare quindi che l'Eterno, cioè Yahweh, stava parlando in prima persona singolare e conclude la teofania o la sua manifestazione in terza persona. Si potrebbe pensare, cari ascoltatori, che riferirsi alla terza persona sia questione di cultura del popolo di Israele, ma l'Eterno parla anche in prima persona. Ascoltiamo cosa leggiamo nel libro del Levitico al capitolo 22. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Di ad Aronne e ai suoi figli che si astengono dalle cose sante a me consacrate dai figli di Israele e non profanino il mio santo nome. Io sono l'Eterno. Di loro, qualunque uomo della vostra stirpe che nelle future generazioni si avvicinerà in stato di impurità alle cose sante che i figli di Israele consacrano all'Eterno, sarà sterminato dalla mia presenza. Io sono l'Eterno». E ancora leggiamo: «I sacerdoti osserveranno dunque ciò che ho comandato, altrimenti porteranno la pena del loro peccato e moriranno per aver profanato le cose sante. Io sono l'Eterno che li santifico». Tutto il libro del Levitico presenta questa forma scritta. È l'Eterno che parla in prima persona, riferendosi all'Eterno o all'Elohim in terza persona. Nel capitolo 22 troviamo l'ordine di offrire l'Eterno almeno per tre volte, con la conseguente conclusione: «Osserverete dunque i miei comandamenti e li metterete in pratica. Io sono l'Eterno. Non profanerete il mio santo nome, ma sarò santificato in mezzo ai figli di Israele. Io sono l'Eterno che vi santifico, che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto per essere vostro Dio. Io sono l'Eterno». Non è possibile leggere ciò che dice Yahweh, come si esprime, senza rimanere perplessi. Questo cambiamento repentino dalla prima alla terza persona o viene volutamente ignorato oppure abbiamo una rivelazione che dobbiamo accettare. O in seno alla divinità degli ebrei e dei cristiani vi è una pluralità di persone pur costituendo uno stesso Dio, oppure dobbiamo rifiutare l'intero testo dell'Antico Testamento perché è scritto in un modo insensato. E pensare che questo testo è ritenuto sacro dagli ebrei, persone che hanno un monoteismo assoluto, cioè che non ammettono che in seno alla loro divinità vi siano più persone. Da queste riflessioni risulta evidente che è più difficile credere ad un monoteismo assoluto della divinità degli ebrei piuttosto che all'esistenza di più persone in seno alla loro divinità. Continuiamo la nostra ricerca leggendo nel Libro dei Numeri al capitolo 19. L'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aronne dicendo: questo è lo statuto della legge che l'Eterno ha comandato, dicendo: di ai figli di Israele che ti portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti e su cui non è mai stato posto alcun giogo. E ancora al capitolo 18: poiché io do come eredità ai Leviti le decime che i figli di Israele presenteranno all'Eterno come offerta elevata. Per questo ho detto loro: non avranno alcuna eredità tra i figli di Israele. Ancora più eclatante il modo di esprimersi di Yahvé dalla prima alla terza persona lo troviamo nel momento in cui Yahvé difende la chiamata di Mosè quale conduttore del popolo di Israele. Aronne e Maria hanno delle rimostranze nei confronti di Mosè e il racconto prosegue in questa maniera. Allora l'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Miriam. Ambedue si fecero avanti. L'Eterno quindi disse: ascoltate ora le mie parole. Se vi è tra di voi un profeta, io, l'Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, ma non così con il mio servo Mosè, che è fedele in tutta la mia casa. Con lui io parlo faccia a faccia, facendomi vedere, e non con detti oscuri, ed egli contempla la sembianza dell'Eterno. Perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? Quest'ultimo brano è di un'evidenza macroscopica. È Yahvé che riprende Maria e Aronne dicendo che Mosè vedeva la sembianza di Yahvé. Come interpretare la testimonianza di Yahvé riferita a Mosè che parlava con lui a faccia facendosi vedere? È una espressione simbolica o reale? Quando Mosè parlava con Yahvé, lo vedeva veramente faccia a faccia? Tenendo presente che leggiamo che l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia come un uomo parla col proprio amico, e considerando che nella lingua originale l'espressione faccia a faccia è la stessa usata in relazione all'episodio in cui Sedechia parla con il re di Babilonia, essa deve essere considerata in senso letterale. Quando considereremo l'antropomorfismo di Yahvé, svaniranno i dubbi sulla interpretazione di tale affermazione. Di fronte a questa struttura della Torah, non rimane che accettare la pluralità in seno alla divinità di Israele e dei cristiani. Abbiamo rimarcato abbastanza la stranezza del periodare del redattore riguardo al soggetto di Dio, utilizzando la prima persona e o la terza persona. Non possiamo certamente esaminare tutta la Torah, perché ciò porterebbe via molto spazio, per cui terminiamo qui le nostre valutazioni per questo aspetto. Alla fine di questo studio, qualcuno potrebbe far notare che anche nel nostro linguaggio usiamo espressioni simili a quella della Torah. Un padre dice al figlioletto: «Il papà domani andrà a lavorare». Il padre usa la terza persona per parlare di se stesso. Valutazione più che giusta, ma ciò non fa che confermare ciò che abbiamo considerato. Rivolgendosi al figlio, il padre rivela un suo attributo, come Yahweh, parlando di se stesso, afferma di essere Dio. Se poi l'attributo che rivela Yahweh non fosse rivolto a se stesso ma a qualcun altro, essendo questo ulteriore soggetto definito Dio, avremmo una più evidente dimostrazione dell'esistenza di una pluripersonalità nel divino. La struttura dei dialoghi nella Torah non può essere paragonata al plurale maestatis, perché questo è posteriore di almeno 1200 anni ai dialoghi narrati dalla Torah. Inoltre, questa struttura indica l'espressione di un singolo che parla in nome di una collettività e non può essere attribuita a Yahweh, in quanto egli non parla a nome di altre divinità. È il linguaggio umano che si adegua al linguaggio divino e in questo caso siamo di fronte a tracce dell'arcaico politeismo nel quale c'era la sovrapposizione tra la divinità e l'oracolo mediatore. Fino ad ora, cari ascoltatori, non abbiamo preso in esame nessun passo del libro della Genesi. Quindi due soli brani possono fare da cornice alla nostra riflessione. Ascoltiamo la lettura nel capitolo 18, ciò che l'Eterno disse ad Abramo. E l'Eterno disse: «Celerò io ad Abramo quello che sto per fare, poiché Abramo deve diventare una nazione grande e potente e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Io infatti l'ho scelto, perché ordini ai suoi figli e alla casa sua dopo di lui di seguire la via dell'Eterno, mettendo in pratica la giustizia e l'equità, perché l'Eterno possa compiere per Abramo ciò che gli ha promesso». Ed ora ascoltiamo la lettura nel capitolo 19. Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte dell'Eterno. Il redattore nella Genesi descrive gli eventi dell'Eterno, cioè di Yahweh, attribuendoli ad un altro, a Yahweh. Yahweh è dunque sia il mandante che l'esecutore dei fatti, cioè è Cristo. Poiché il testo è alquanto strano, qualcuno ha supposto che nel tetagramma siano espresse le tre persone della Trinità, ma è una conclusione che lascia spazio a molti interrogativi. Innanzitutto, quando l'Antico Testamento si riferisce allo Spirito Santo, usa il termine Ruach, al femminile. Inoltre, non vi è nessun accenno nel Nuovo Testamento che Yahweh sia il padre di Gesù Cristo, mentre i riferimenti a Yahweh come Gesù Cristo sono ovunque. Se il nome Yahweh è un nome proprio, non è possibile attribuire questo nome a tutte e tre le persone della Trinità, come si pensa comunemente. Piuttosto, il nome ebraico corrispondente alla Trinità è Elohim, cioè Dì. Questo particolare non deve sfuggirci, perché troveremo chiarezza quando studieremo le testimonianze che troviamo nel Nuovo Testamento della presenza di Cristo nell'Antico Testamento. Senza questa chiara prospettiva, non è possibile comprendere le scritture del popolo ebraico e la pluripersonalità della divinità dei cristiani. Dopo queste considerazioni, cari ascoltatori, continueremo nelle prossime trasmissioni la vincente ricerca del testo biblico, consapevoli che la lettura sarà ricca di chiarezza e di nuove prospettive teologiche e spirituali. L'Eterno, il nostro Dio, sia il compagno della vostra vita. Amen.